Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, alcune settimane fa l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, in collaborazione con Libera, ha organizzato un convegno dal titolo Roboante alle radici del crimine. All'interno di questa giornata di studi mi hanno colpito in particolar modo due relazioni, due interventi che adesso andremo ad analizzare in questi giorni. Il primo è quello del professor Raul Caruso, che è docente di economia del terzo settore proprio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il suo intervento era francamente, come dire, di quelli da interpretare, perché era composizione della spesa pubblica e incentivi alla criminalità organizzata. Quindi uno dice, oibo. Allora, leggendo, come dire, questa relazione, ad un certo punto si arriva ad un punto, secondo me, focale. Professor Caruso dice, attenzione, che esiste una stretta relazione tra la spesa pubblica e l'indice di aumento o diminuzione della criminalità organizzata. Ad esempio, se noi aumentiamo gli investimenti nel settore delle costruzioni del 10%, l'indice di criminalità organizzata, di penetrazione e di diffusione aumenterebbe del 3%. Oibò, questa è una cosa molto interessante. E siccome è interessante, noi con chi ne parliamo? Ma con il professor Caruso. Buongiorno. Buongiorno a voi, a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci spiega come entrano in relazione l'aumento della spesa pubblica e l'aumento, e poi vedremo invece un caso contrario, la diminuzione dell'indice di criminalità organizzata. Sì, cercherò di dirlo in due parole. La spesa pubblica rappresenta per le associazioni criminali una sorta di torta di cui cercano di fare, che le organizzazioni cercano di mangiare sostanzialmente, di cui cercano l'appropriazione. Quindi questo che cosa vuol dire? Che veicolare una gran quantità di risorse in spesa pubblica, in particolare in alcuni settori, rende più virulenta l'azione della criminalità. Perché? Ecco, mi scusi, professor Caruso, ma visto che noi siamo a Milano in questo momento, no? Sì. Voglio dire, allora, se veramente c'è questo indice del 3%, Expo 2015 dovrebbe preoccupare noi e gli amministratori non poco, o sbaglio? Ma sì, in effetti assolutamente una grossa opera pubblica, una grossa operazione pubblica come l'Expo è chiaramente una grande torta su cui azzannare i denti, buona sostanza. Quindi gli amministratori devono essere più attenti del solito su come saranno redistribuite le risorse di questa grande operazione di spesa pubblica. Certo, ecco, ma questa sua correlazione, no, al 3% di aumento dell'indice di pervasività di infiltrazione della criminalità mafiosa, è un indice scientifico oppure, come dire, una stima che lei basa sui suoi studi? No, è una stima scientifica, per giunta sottostimata. Ah, ecco. E precisiamo questa cosa, dato che la misurazione della criminalità è sempre una misurazione ex post, nel senso che se i criminali commettono azioni ad essere conducibili, ad esempio se incendiano un negozio, se incendiano un cantiere, che sono tipici reati attribuibili alla criminalità organizzata, allora si calcola, si può misurare la criminalità. Certo. Ma nel caso in cui essa non si manifesti in questa maniera violenta, allora noi non abbiamo modo di misurarla. Assolutamente. Questo che vuol dire che quando la misuriamo, ma è sempre sottostimata. Ecco, io vorrei lasciare i nostri radioascoltatori con un messaggio però positivo. Atteso il fatto che lei ha anche calcolato che se aumenta la spesa pubblica nel settore sanitario del 10%, aumenta anche l'indice di criminalità organizzata di una pari misura, quindi anche qui del 10-11%. Lei però dice: attenzione, che se noi andiamo a, invece a investire in quella che è la protezione sociale, nel welfare, nel terzo settore, gli investimenti di spesa pubblica magicamente diminuisce del 20-25% l'indice di criminalità organizzata, basta aumentare la spesa del 10%. Lasciamoci con questo messaggio positivo. Sì, il messaggio positivo, che poi è spiegabile non con una magia ma con due motivazioni. La prima è riguarda l'essenza stessa delle spese sociali, cioè guardate, le spese sociali, noi sappiamo, contribuiscono al welfare, quindi contribuiscono alla coesione sociale, che in linea generale ovunque nel mondo è sempre un avversario della incidenza della criminalità, cioè vale a dire gli individui statisticamente delinquono di meno laddove il welfare è meglio, il welfare e anche altri beni pubblici sono meglio offerti, sono più presenti. Certo. Questo da un lato. Dall'altro è anche una questione tecnica, cioè vale a dire la spesa per protezione sociale in genere è frammentata e parcellizzata tra tanti soggetti, non crea quelle grandi torte di appalti sulle quali i criminali organizzati preferiscono mettere le mani. Assolutamente chiaro il suo discorso, io la ringrazio per il suo intervento, le auguro buon lavoro, così come dico grazie a Fabio Cantadori in regia e Laura Faggin in redazione. Da Roberto Calullo una buona giornata.